Tabula rasa, Cortina d'Ampezzo, Tiziano Farinacci di Pi Greco, Moschita de Miramare in Olanda, Anna qui a Roma. Un grosso bacio ad Anna. E poi a Latina c'è Massimo Pasqualetti, Francesco Cornello a Bergamo, Cecilia Miradoli del progetto Pindar, Maya fedelissima in Sardegna. Un saluto anche ad Antonio Zoviet da Firenze. Doriana Panico, Taranto, il medico della peste. Abbiamo Cristiano Bocci, valente musicista italiano, che farà parte della nostra playlist serale. Dez De Carlo da Boston, USA, Giulia qui a Roma, Orlando Furioso di che ci sta ascoltando dal Piemonte. Salutiamo Noise Cluster di Flavio Del Becante, Arianna Degni Lombardo. Ricordo naturalmente il nostro conto corrente postale che è 6180401. Che va intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Volsci 56 00185 Roma. Inoltre qui in radio c'è la Scarceranda, la più famosa autoproduzione di Radio Onda Rossa. L'agenda dedicata al carcere. Allora, andiamo ad iniziare con 909, un ulteriore progetto che vede protagonista Marco Milanesio, una celebrità ormai della musica sotterranea e sperimentale italiana da molti anni, a cominciare dal suo vecchio progetto dal nome Disordine, poi produttore, arrangiatore, eccetera, eccetera. Questo è un lavoro dal nome Come il mare dentro e noi ci ascolteremo questa sera questa traccia dalle caratteristiche prettamente rarefatte e ambientali, ma con un risvolto elettronico. Eccola qua dunque, Ombre e riflessi. un vero e proprio viaggio negli spazi siderali più profondi. E mi è tornato in mente un programma che stavo vedendo ieri sera in televisione, che parlava della struttura dell'universo, ivi compresa l'energia oscura, che ne compone gran parte, di cui si sa assai poco. Ebbene, questo brano, Ombre e riflessi, mi ha un po' riportato alla questa recente memoria. Un viaggio tra kraut e, appunto, realtà cosmiche. E saluto Francesco Cornello, e giustamente viene sottolineato che dove c'è Marco Milanesio c'è sostanza e bellezza, e quindi noi lo ritroviamo in sede di produzione e cura del suono, e nell'ultima opera invece di Self Imperfectionist di Giorgio Pilon, si chiama Pure, 5 tracce non lontanissime da queste atmosfere così siderali. Qui magari c'è più movimento e azione, ma come potrete anche apprezzare, le unioni, diciamo, sensoriali sono abbastanza tangibili. E allora parte questa traccia dal nome Dusk. Eppure i cristalli siderei, cesellati anche dalla collaborazione preziosa di Marco Milanesio, che si è unito al talento di Giorgio Pilon, detentore del marchio Self Imperfectionist, si chiama Pure questa sua ultima fatica, un prezioso 5 tracce che esce per la Delete Recordings, una importante, interessante etichetta torinese. E quindi abbiamo iniziato con la Torino migliore, ma d'altronde il Piemonte è pieno di tanti talenti nel campo della sperimentazione, dell'industrial, del noise. Saluto Like Wake, Stefano Diserio, Alessandra Monterotondo, di nuovo Francesco Cornello a Bergamo, Filippo Panichi, altra eminenza grigia della sperimentazione italica. L'amico Jean-Claude, Roberto Doberto, chissà se si dice la francese oppure meno, lui sta in Val d'Aosta. Effettivamente, viaggi intergalattici che interrompiamo per andarci invece ad ascoltare una dimensione, a godere una dimensione diversa. Grumoso jazz industrial ideato da Cristiano Bocci, già di Chemical Resistance. E attraverso la Nesplan Sounds Group di Raffaele Pezzella ha dato alle stampe questo Beyond the Dark Zones. Ruvide atmosfere, dicevo, anche graffiate di jazz, che mi ha ricordato Macelleria Mobile di Mezzanotte di Adriano Vincenti. E allora ci ascoltiamo questa sera City Blur Walking e anche la sesta traccia esatto dal nome Evil Pain. We'll be right back. Risolto il dilemma di Jean-Co Oberto, suona anche meglio effettivamente, ma per affetto dunque lo chiameremo Jean-Claude Oberto. Allora, queste dissonanze decisamente industrial, arricchite e di tanto con dizioni di jazz d'avanguardia. Cristiano Bocci rientra alla grande con questo ottimo lavoro. Un ottimo lavoro che porta il nome Beyond the Dark Zones, collaborazioni preziosissime nelle due tracce testé mandate. Nicola Locci, l'amico Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal. La perizia, il valore jazzistico di Paolo Acqueviva al trombone e Diego Rossi al sax baritono. Ma poi l'album si arricchisce anche delle collaborazioni di Mara Lepore nella parte pianistica, Emiliano Nencioni, anche lui ai fiati, anche Gianluca Becuzzi che canta in una traccia che ci ascolteremo la prossima settimana. Saluto Carla qui a Roma, Valerio Michetti di Grazia Obliqua e permettetemi un off topic. Per gli amanti del gothic storico, il gothic è quello doc, sabato qui a Roma suoneranno nel 40° anno della loro esistenza il Cariglion del Dolore, con una formazione in parte nuova, con Alessio Schiavi di Avanguardia e Alessandra Trinity Berziani della Grazia Obliqua. Suoneranno qui a Roma insieme a Four Plus Dead, Cure Head Key, e dopo cercheremo di aglietare i presenti, il sottoscritto e Noctibus Panis, con un DJ set, diciamo, probabilmente a tema, e quindi gothic e dintorni, ma non solo. Per chi fosse interessato, basta viaggiare su Facebook e non solo per andarsi un po' a vedere il luogo fisico. Personaggio misterioso proveniente, chissà, anche lui dall'Italia, ma di lui non sappiamo nulla. Sappiamo solo che ha fatto un secondo lavoro dal nome Post Exoticism e lui è Eimito Kunst, accasato presso la Dissipazio di Nicola Quiricone, che spesso chiamiamo in causa perché ci sono molti talenti sotto, diciamo, l'egida del buon Nicola Quiricone. Allora, Post Exoticism, dunque, c'è la prima traccia dal nome Terminus Radioso e la seconda dal nome Soloviei. Qui è una particolare mistura tra kraut rock e suggestioni elettroniche del tutto particolari. E vado anche a salutare Rosario Rizzo di Simon Dreams and Violet, collaborazione anche con Nevus. E mi chiedeva conferma sul fatto che costui che abbiamo ascoltato adesso fosse Emito Kunst. Gli do conferma, secondo lavoro per lui con questo post exocitism. Il post esoticismo di Emito Kunst, personaggio misterioso che qui manipola sintetizzatori, nastri magnetici, organo, percussioni, tromba, più o meno canta, basso. Field recording. Anche qui trasognante jazz, ci sono tracce anche di veramente di onirico jazz, un po' quasi come Cristiano Bocci mandato qualche minuto fa. E tutto sotto la banda della Dissipazio di Nicola Quiriconi. Quindi molti artisti italiani questa sera, se non tutti, almeno un buon 80-90%. E infatti continuiamo e arriviamo qui a Roma, un duo magico spesso presente nelle trasmissioni del sottoscritto. Loro sono Noise Cluster, Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecant. Quest'ultimo anche valente suonatore di tromba e quindi in tutte le sue opere spesso, o quantomeno, ogni tanto vengono fuori anche delle atmosfere quasi da jazz alieno. Ultimamente però ha un po' marcato in maniera maggiore il campo dell'elettronica e lo conferma anche in questo Medusa Who Else. Si apre con Meet Medusa e poi ci sarà Walled In. Rain, they won't remember me. and in hiding. Leave me the darkness, the darkness. Leave me the darkness and the stillness. The darkness, leave me the darkness and the stillness. Victim was I, innocent, pure. Punished I was for filthy unholiness. Thank you. Blame someone else. Always someone else. Always someone else. Medusa. Who? Else? Medusa. Who else? Stone walls.